Ciao a tutte e benvenute nello spazio autogestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Siamo Samantha e Federica e questa è Quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua, la trasmissione che vi accompagnerà più o meno dalle 22 alle 23. We'd like to say to the new girl in town. A new girl in town. Ma che cos'è Quando eravamo pelose? Eh sì, Quando eravamo pelose è un incontro di idee diverse e sentimenti comuni, di immagini e di colori, di suoni e di parole. Più semplicemente è un insieme di storie raccontate da donne su altre donne. Senza peli sulla lingua, sempre e comunque. Le loro esperienze, la loro visione della vita, i desideri, i grandi successi. Ma a volte anche le ripite cadute. Storie di donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo e che hanno influenzato e continuano ad influenzare intere generazioni di donne. Ed oggi vi raccontiamo qualcosa di Valentina Pedicini. Valentina è una regista di documentari nata in Puglia, oltre che una nostra grandissima amica, per cui siamo onorate di averla qui questa sera. Samantha magari ci racconta un po' qualcosa di lei prima di presentarvela. Vogliamo sottolineare il fatto che lei riesca a portare con sé nella sua vita e nel suo modo di fare documentario il coraggio delle donne e l'attaccamento alla sua terra. E ne è fiera. Dopo questa bellissima canzone è giunto il momento di Valentina! Allora, questa sera naturalmente Valentina è qui con noi, è nostra ospite, e quindi noi ve la presentiamo. Ciao Valentina. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato. È stato un piacere. Che cosa ci racconti di bello? Come mai a Roma? Sono tornata a Roma un po' perché è la città in cui ho vissuto per tanti anni, prima di lasciarla per andare nel nord Italia a studiare documentario. E dove sei andata di preciso? A Bolzano, a Bozen. In una scuola appunto specializzata nel film documentario. Quindi ambiente diverso, situazione diversa, percorso particolare? Assolutamente sì, una scuola lunga 3 anni, però avevo bisogno di tornare a Roma per rivedere la mia gente e anche un po' per presentare il film di diploma che finalmente, dopo aver girato un po' di festival, è approdato al Cinema Aquila. Ah, e qual è? E si chiama My Marlboro City. E appunto è il mio film di diploma, l'ultimo film che ho fatto, ambientato però nella città in cui sono nata. Come avete detto prima, sono nata in Puglia e quindi il film è ambientato a Brindisi. Ed è al cinema L'Aquila per un concorso ed è una proiezione? No, era all'interno di un concorso, fuori raccordo Film Festival, che si è appena concluso e insomma speriamo che la gente sia passata a vederlo. Noi sì. Voi sì, grandi. Sì, noi l'abbiamo visto e tra l'altro ci è piaciuto anche molto, però magari ci piacerebbe che tu ci raccontassi qualcosa di questo lavoro che sinceramente ci ha colpito, un mediometraggio, diciamo 55 minuti, interessante e anche con materiali d'archivio di parecchi anni fa, quindi diciamo un lavoro anche articolato. Sì, è un po' un lavoro sulla memoria perché ho tentato di raccontare che cosa è stata Brindisi negli anni Ottanta, visto che era la capitale del contrabbando e in quegli anni io crescevo nella piccola città in mezzo ai contrabbandieri. Tranquilla e felice. Tranquilla e felice, sì. In riva al mare. Sì, e quindi insomma quando ho dovuto scegliere il tema per il film di diploma ho deciso di ritornare a casa e di raccontare la storia di Brindisi però attraverso 4 generazioni. Di ex contrabbandieri, un uomo invece in stato di semilibertà, una maestra di scuola materna nel quartiere più pericoloso di Brindisi e un gruppo di ragazzini che pur non avendo vissuto il contrabbando ne subiscono le conseguenze ancora adesso. E soprattutto hai scelto di fare questo mediometraggio naturalmente, dandogli un approccio tutto femminile. Assolutamente sì, un po' perché uno dei protagonisti del film è questa maestra appunto che ha lavorato tanti anni in uno dei quartieri più difficili di Brindisi, che è anche mia madre. Che abbiamo riconosciuto sul video. E sì, è un po' come in tutti i lavori che sto tentando di fare negli ultimi anni, la grande sfida è appunto dargli un approccio, uno sguardo femminile e quindi raccontare anche la violenza di quella città e il passato di quella città in un modo diverso. Femminile, con un approccio poetico, non un reportage ma un documentario narrativo, diciamo. E anche un po' la tua storia, o almeno la storia della città in cui vivevi in quei tempi. Assolutamente, c'è gran parte autobiografica nel racconto, anche se poi ho lasciato che i protagonisti parlassero per sé perché io sono andata via appunto, sono scappata da Brindisi e quindi in qualche modo era necessario che fossero loro a raccontare la propria storia. E com'è stato tornare a casa? Non solo tornare a casa per rivedere magari i tuoi cari, la tua casa, la tua terra, com'è stato tornare a casa in questa situazione? E dopo tutti questi anni, giustamente dice Samantha. Assolutamente, perché sono un po' vecchia e quindi mancavo da casa da 19 anni. Ha fatto un certo effetto vedere le riprese del 91. Sì, e ho evitato volutamente di mettere il mio archivio per non vedere come ero invecchiata negli ultimi tempi. È stato difficile, ma forte, sento che in qualche modo ho fatto anche questo film per riconciliarmi con la mia terra e con quella storia difficile e quindi in qualche modo sento di aver vinto la mia sfida. Sei anche riuscita a riunire tante belle cose, nel senso che dal film si vede che a Capodanno stavi lì con loro, erano anni che non passavi un Capodanno a Brindisi. Assolutamente, assolutamente sì. Per cui ti sei effettivamente riconciliata con la tua storia ma anche con la storia di tutti quelli che come te vengono da quella terra. Sì, e anche un po' ho tentato di raccontare tutti quelli come me che hanno dovuto lasciare quella città nonostante gli affetti e nonostante l'amore per la Puglia perché le condizioni di vita non erano possibili. E oggi? E oggi... È meglio quello che hai trovato? O è... È strano e spero che la gente veda il film, perché il contrabbando in qualche modo aveva risollevato le sorti della città e adesso Brindisi è diventata... non è più legale senza il contrabbando, non è più legale di prima, ma c'è un deserto, non ci sono possibilità di lavoro e vedo poche speranze per le nuove generazioni. Sì, anche dal documentario sembra che un po' si sia piegata su se stessa, sì. Non abbia completamente abbandonato le ideologie che guidavano il contrabbando e il motivo per cui avevano fatto quella scelta di vita. Sì, è giustissima quello che avete visto, perché ed era il tentativo del film di raccontare che il contrabbando è nato perché Brindisi fin da allora era una delle città più povere in Italia e con il più alto tasso di disoccupazione, quindi diciamo che non è stata una scelta il contrabbando, è stata una necessità per tutte le persone che ne furono coinvolte. Infatti l'impressione, non so tu se magari è una mia impressione, quindi se può essere sbagliata o meno, però confrontando quello che era il contrabbando a Brindisi, sempre guardando il tuo lavoro tanti anni fa e quello che è oggi, sembra quasi che i due momenti siano divisi da una sorta di linea rossa, cioè c'è quasi una purezza nel contrabbando che era fatto tantissimi anni fa, una sorta di innocenza, tra virgolette, se mi passi il termine. Assolutamente sì, e la grande sfida del film è stato quello di non far diventare la criminalità qualcosa di romantico. Il contrabbando ha portato anche dei morti e gravi sofferenze, insomma, per le famiglie coinvolte. Però lo scopo era appunto raccontare il perché non si nasce criminali. Questo era lo scopo principale. Ci si diventa in qualche modo. We'll be right back. Allora, abbiamo appena ascoltato un brano che penso la maggior parte di voi abbia riconosciuto, particolarmente legato alla tradizione pugliese, una canzone di denuncia che attraverso la pizzica racconta in qualche modo la sottomissione delle donne in Puglia. E tra l'altro un brano che tu hai scelto per Marching Feet, quello che forse è il tuo primo lavoro, dico forse perché poi vabbè ritorniamo su questa cosa del primo lavoro o meno, diciamo il tuo primo lavoro a livello pratico, via, diciamola così, un documentario particolare, chiamiamolo anche il suo primo cortometraggio, perché no? Ha una durata di buonissimi 5 minuti e in 5 minuti riesce a raccontare un tema veramente molto pesante come la violenza sulle donne, ma anche questa volta prova a raccontarcelo con l'innocenza di donne che marciano per la manifestazione contro la violenza svolta il 25 novembre a Roma. Era una manifestazione organizzata da collettivi femministi e lesbici e anche questa volta cosa ci racconti? Te la lasciamo aperta questa volta. Diciamo la domanda che a me veniva prima di tutte è perché questa scelta, visto che parliamo di quello che è in qualche modo il tuo primo lavoro, perché la forma documentaristica e cosa significa per uno sguardo come il tuo, che è uno sguardo femminile, utilizzare questo tipo di forma? Anche questo piccolo progetto era nato all'interno della scuola. C'era stato chiesto di presentarci utilizzando appunto il nuovo linguaggio che stavamo per imparare, che era quello del documentario, e non potevo presentarmi in altro modo se non parlando della cosa a cui tengo di più in assoluto, che è il mondo delle donne, e uno dei temi più importanti per me è quello della violenza contro le donne. E quindi Marching Feet in qualche modo è stata la forma in cui io ho tentato di presentarmi nella scuola in cui, insomma, stavo iniziando a lavorare. Cosa ti rimane di più di quell'esperienza? Perché oltre che un'esperienza come, diciamo, documentarista, è stata anche un'esperienza come donna, probabilmente. Sì, è stato... Per me è stato bellissimo farlo, perché in qualche modo riassumeva anche i miei anni di lotta a Roma nei collettivi femministi e lesbici. Ed è nato molto spontaneamente, come avete visto voi, con una purezza di sguardo e anche una inesperienza, però con una verità di fondo. È un film pieno di rabbia positiva a favore delle donne che lottano contro la violenza, per uscire anche un po' dal ruolo delle donne vittime di violenza. Ci sono donne che combattono, e insomma io sto dalla loro parte. Anche per te però è stato un po' il modo per uscire da quello che volevi fosse il tuo sogno, ed era il primo passo per avvicinarti a questo, no? Era il lavoro che ti permetteva di entrare alla Zelig. Ad oggi come guardi quel lavoro? È stranissimo, ma forse è uno dei lavori a cui sono più legata, perché è l'inizio di un viaggio per me. Ho scelto in qualche modo che il mio sogno diventasse un lavoro, ma la spinta più grande continua a essere la passione, e c'è tutto in quei 5 minuti di cortometraggio e di documentario. No, la cosa particolare, no, mi viene in mente adesso, poi ci sono tra questo lavoro e Marlboro City, di cui abbiamo parlato prima, altri lavori che hai fatto, diciamo che sono un po' il primo e l'ultimo tra virgolette, i due lavori di cui abbiamo parlato adesso. È particolare il fatto che sei partita da Roma, la tua città d'adozione in qualche modo, e hai fatto un viaggio a ritroso per ritornare nella tua terra, cioè non sei partita dalla tua terra, quasi come se avessi un po' di timore nel raccontare subito qualcosa che fosse così tanto tuo. Eh sì, mi hai sgamato, come dire. Ebbene sì, è stata scoperta. Sono stata scoperta. Sì, è un po' anche a che fare con il motivo per cui faccio documentario, credo, che è la forma che ho scoperto mi rappresenta di più per comunicare con gli altri e anche per comunicare con me stessa, quindi il primo e l'ultimo film in qualche modo partono da me per andare verso l'esterno, e per me il documentario è anche una forma per raccontarsi, oltre che per raccontare la realtà. Ed è giusto raccontarsi quando si chiede agli altri di raccontare le loro realtà. Sì, per me questa è la cosa fondamentale, è come dire anche una posizione etica. È importante aprirsi agli altri se si desidera, come accade nei documentari, che gli altri mettano a disposizione la propria vita e la propria esperienza per fare un film. Si fosse collegata soltanto ora, siamo Samantha e Federica, quando eravamo pelose, questo è lo spazio del martedì autogestito da femministe e lesbiche, Radio Onda Rossa, gli 87.9, e oggi abbiamo come ospite Valentina Pedicini, la nostra documentarista. E siamo arrivate pian pianino all'opera... prima, se così si può dire. In tutte queste definizioni abbiamo avuto delle diatribe, perché definire opera prima, opera seconda è veramente difficile, però forse questo è il cortometraggio ancora, perché sono circa 18 minuti, che uno dei più delicati, diciamo, quello che un po' ti ha impegnato un po' di più. Cominciavi a saper sempre meglio giocare con la telecamera e ci regali sempre delle fantastiche immagini, ma questa volta, al posto di parlare di un tema generale come può essere importantissimo quello della violenza contro le donne, parli della storia di una ragazza, quindi ci racconti una storia. Sì, Pater Noster è molto importante per me, perché è stato, come hai detto tu, il primo avvicinamento al documentario vero, uscire da me per raccontare qualcun altro. Ed è la storia di Laura, campionessa di Kung Fu, che vive da 15 anni in una comunità di monaci Shaolin di religione cattolica, sulle montagne di Bolzano. E immagino che per chi come te poi racconta delle cose, siccome so che questo è stato un lavoro particolare, un pezzettino di strada particolare che hai fatto, com'è? Cosa lascia su di te queste, cioè, che tipo di conseguenze lascia raccontare queste storie, che a volte poi sono storie di vita anche particolari, difficili anche da metabolizzare per chi le ascolta, e per chi le racconta cosa rimane, che traccia resta? È strano, perché è sicuramente il lavoro più duro che ho fatto ed è anche quello che in qualche modo continua a perseguitarmi in senso positivo, quello a cui sono più legata, perché ho dovuto comunque scontrarmi in qualche modo con una storia totalmente diversa dalla mia, con una persona che aveva fatto delle scelte che forse nella vita normale non avrei accettato e non avrei tollerato, e ho dovuto mettere da parte tutte le mie riserve per permettere a Laura di raccontare il perché delle sue scelte e darle la possibilità di spiegarsi a me e in qualche modo a chi l'avrebbe vista. Questa è una cosa molto particolare dei tuoi documentari. Solitamente siamo comunque circondati da documentari che, a prescindere dalla qualità delle immagini o dalla qualità del prodotto, solitamente raccontano un punto di vista, e questo punto di vista è quasi sempre quello della persona che ha girato il documentario. Invece sembra dai tuoi che tu fai un passo indietro e dai la possibilità a loro di raccontare qualcosa, e forse questo qualcosa alle volte ti scappa dalle mani. Eh sì, è proprio così, un po', ed è anche il motivo per cui io ho fatico a definirmi regista. Mi sento per lo più una cantastorie che utilizza un mezzo per permettere agli altri di narrare la propria vita. Quindi ho deciso negli anni di, progressivamente, un po' prescelta, un po' è diventato, credo, il mio stile, di abbandonare il documentario a tesi, quello che molto spesso i documentaristi fanno per dimostrare che grandi capacità registiche grazie hanno. Grazie delle note tecniche. E invece appunto di avvicinarmi alle persone e di permettere a loro di raccontare la storia della loro vita. E Laura aveva e ha ancora tanto da raccontare. So infatti che questo per te è un lavoro un po' ancora sospeso. Ne parliamo infatti con molta delicatezza e con anche un po' con difficoltà, insomma ci sono dei limiti in questa storia che hai raccontato che vengono valicati, non è facile starne qui a parlare, infatti magari il consiglio è a chi ne ha voglia di vederlo per capire veramente di cosa stiamo parlando. Però perché è ancora sospesa per te questa storia? Tu ci hai detto ci sono ancora troppe cose sospese, non ne parlo ancora con serenità. Un po' c'è il desiderio grandissimo di tornare da Laura e di continuare il film con lei. E un po' perché quello che io ho vissuto mentre giravo questo film è stato così tanto potente che credo stia ancora lavorando dentro di me, e avevo bisogno di staccarmi da quella dimensione per poi tornarci in un modo nuovo. Ed è quello che farò presto, spero. Back again. Look alive. ancora noi, Samantha, Federica e Valentina, visto che è in studio con noi e ci accompagna in questa puntata. E pian pianino, tra insegnamenti, tecniche ed esperienza, arriviamo a Mio Sovversivo Amore. E Mio Sovversivo Amore, a me e a Federica, ci piace pensare che sia stato il tuo esperimento. Vedendo l'opera omnia completa, siamo riuscite a estrapolare da questa anche un punto di vista tecnico. E sì, ci sembra proprio così. Ci sembra che tu ti sia divertita a giocare con il linguaggio, con le immagini, e che la storia si sia prestata, e che le protagoniste della storia si siano prestate a giocare con te. E Mio Sovversivo Amore è stato il film di passaggio, in qualche modo. E sì, è stato il film del gioco e della sperimentazione. Il tema lo permetteva, perché avevo a che fare con due protagoniste assolutamente risolte nella loro esistenza, che vivono la loro storia lesbica con estrema tranquillità, e in più per performance e teatro sono delle drag king, quindi si travestono da uomini. Mi interessava il tema e mi interessava affrontarlo appunto in maniera giocosa, e quindi è stato il modo per me di giocare, come avete detto voi, con la camera, sperimentare un nuovo linguaggio a metà fra il documentario e la messa in scena. Tu dici che a livello di temi forse non è il lavoro che ti appartiene di più, però ne sei molto legata, perché hai potuto fare dei passi in avanti nel tuo rapporto con questo linguaggio che utilizzi, quello dell'audiovisivo appunto. In realtà mi rendo conto che non ho scelto le storie di donne volutamente, che in qualche modo mi sono arrivate, e forse perché parto dall'idea appunto che uno nel documentario debba parlare un po' di quello che sa, oltre ad aprirsi alle altre esperienze. E quindi ancora una volta era un tema di donne, un tema lesbico, però assolutamente sereno e raccontato in maniera divertente. E anche in una nuova versione. Sì, una nuova versione appunto di linguaggio cinematografico. E avevo la complicità delle due protagoniste, di Yulia e Miriam, quindi mi sono permessa visivamente delle cose, insomma, che raccontavano la loro vita, ma la raccontavano così come loro la mostrano al pubblico. E pensi che il fatto che loro si siano trovati davanti a una donna che raccontava le loro storie, piuttosto che un uomo, abbia in qualche modo semplificato o abbia aperto una sorta di corsia preferenziale nel tuo rapporto con loro? Secondo me sì, credo di sì. Credo che loro abbiano riconosciuto appunto che c'era un tentativo di avere uno sguardo femminile sulla loro storia, e questa complicità in qualche modo ha permesso loro di aprirsi, e sapevano anche della buona fede in qualche modo, del fatto che avrei voluto appunto lavorare con loro, fare un documentario con loro più che su di loro. Potresti definirlo il tuo lavoro più divertente? Loro si sono molto prestate, il tema si prestava, tu sei riuscita comunque ad unire e a sperimentarti anche in questa versione più vicina al teatro, così come la definisci tu. Sì, ed è stato anche divertente girarlo, nel senso, mi diverto sempre quando giro i miei film, perché c'è una componente appunto di passione e di amore per quello che faccio. Però rispetto ad altre storie in cui dovevo comunque avere più cautela rispetto ai protagonisti o alle vicende raccontate, con Yulia e Miriam è stato divertente. sempre Radio Onda Rossa, sempre Quando Eravamo Pelose, siamo sempre noi. Oggi è martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa, e noi naturalmente siamo qui con la nostra trasmissione e finalmente siamo riusciti a portare un ospite in studio, Valentina, che ci sta raccontando la sua esperienza di regista e di donna. Anche noi ci stiamo sperimentando in una nuova forma di trasmissione. È la prima volta che abbiamo un ospite in studio. No, e siamo soprattutto contente che sia lei, che oltre che una grande professionista è una grandissima amica. Siamo contentissime di aver fatto, diciamo, un piccolo percorso di vita insieme a lei. È molto bello averla qui, quindi, questa sera. Abbiamo parlato un po' dei suoi lavori, del suo percorso di donna, del suo percorso di regista, di documentari. Tra un po' Valentina lascerà nuovamente Roma e viaggio per cosa? Nuovi progetti o dove vai? Direzione Sardegna, ancora Sud Italia. Ancora mare? Ancora mare. E ancora storie di donne. E ancora donne. Ancora donne. C'è un nuovo progetto in corso in Sardegna, un nuovo lavoro a cui tengo tantissimo e che spero di potervi raccontare presto. E poi c'è il piccolo My Marlboro City che parteciperà a un festival in Sardegna e quindi diciamo che unisco il vecchio lavoro con l'inizio di un nuovo in questa terra magica. Che concorso è in Sardegna? Si chiama Babel Film Festival ed è un festival molto interessante perché è dedicato alle lingue minoritarie e My Marlboro City è tutto in dialetto brindisino. Per tornare a delle vecchie passioni tipo la linguistica. E la dialettologia, assolutamente sì, perché da lì arrivo prima di arrivare al documentario. E allora noi vogliamo ringraziare Valentina di essere stata con noi questa sera. Grazie a voi e spero insomma che questa prima esperienza con un ospite in studio prosegua e non si interrompa a causa mia per sempre. Ti verremo a cercare qualora fosse così, lo sai, non anche in Sardegna. Dove mi trovate, fra le montagne di Bozen. Sappiamo dove trovarti, a Bozen. E niente, speriamo ti porti fortuna alla trasmissione per il concorso a cui partecipa My Marlboro City e grazie ancora di essere stata così con noi e un bacio grandissimo. Grazie a voi e grazie a Radio Onda Rossa per avermi ospitato il martedì autogestito di femministe e lesbiche e viva le lesbiche sempre. وسماء كله نجوم quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi alberi infiniti quando sei qui vicino a me questo soffitto violano Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo suona un'armonica mi sembra Yeah. Eccoci di nuovo, in realtà abbiamo un po' barato questa sera, fino adesso abbiamo sentito una registrazione di un incontro, un'intervista che abbiamo fatto insieme a Samantha Valentina, perché Valentina aveva degli impegni di lavoro che l'hanno portata via da Roma e quindi siamo come ci ha detto doveva presentare il suo My Marlboro City ad un festival. E però noi volevamo comunque farvela sentire anche in diretta e dovremmo averla. Valentina? Ci sono, Pelose? Sì, ce l'abbiamo fatta! Grandi Pelose! Ebbene sì! Ciao, come stai? Bene, bene. Come si sta lì in Sardegna? Voi? Sono in Sardegna. È bello il mare anche d'inverno? Bellissimo, bellissimo. Oggi particolarmente, sì, sì. Senti, allora, noi ti avevamo lasciato che andavi a presentare Marlboro City a questo concorso, quindi volevamo cogliere l'occasione per sapere come era andata, se ti avevamo alla fine portato fortuna, veramente mi avete portato più che fortuna. Abbiamo vinto il primo premio come miglior documentario. Bravissimi. Grandi. Siamo contentissimi. Ogni volta che faccio qualche cosa in trasmissione, fin quando tutto il martedì applaude. Comunque noi ci contavamo perché ci era piaciuto tanto, l'avevamo già detto, insomma, e quindi eravamo convinte. Siamo contentissime. Vai. Senti, non ti vogliamo rubare troppo tempo? Però ti io a voi già me ne avete concesso tanto e sono contentissima di essere state con voi, grazie davvero. Siamo state contentissime noi, sicuramente. Grazie a Vale. Te, almeno ci siamo divertite. E volevamo... mi troverete sotto la radio tutti i giorni adesso. Bravissima, diventerai una delle nostre migliori fan. Sì, fate fare i film alle donne. Mancheremo. Assolutamente. E poi vincono, fate fare i film alle lesbiche, vi prego. Che sono vincenti, dai. Ebbene, dai, sì. Sempre. E sulle note di tutta questa gioia volevamo chiederti una canzone da dedicarci, da dedicare al premio, alla puntata, a noi a e tutti, a tutti, insomma. Insomma, e a tutte. Guarda, io ho una canzone del cuore perché mi ricorda le manifestazioni in piazza con le lesbiche e anche con voi e secondo me ha un senso anche per me Marlboro City perché veniamo tutti da lì in qualche modo ed è mala razza. Vorrei condividerla con voi, sono contentissima. E noi siamo contenti della tua scelta di condividerla con te. E allora ti mandiamo un bacio grande grande. Grazie ancora. Anche a voi. E speriamo di rivederci presto, Vale. Baci. Ciao. Sì, ci vediamo prestissimo. Ciao Vale. Ciao. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Un bastone tira fuori i denti, tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiare un bastone tira fuori i denti, tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiare un bastone tira fuori i denti, tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiare un bastone tira fuori i denti. Non servo tempo fa, in una piazza. Cristo sulle note di Malaraccia noi vi salutiamo anche questa sera. Vi ringraziamo per averci ascoltate. E niente, ci vediamo la prossima volta. Buonanotte a tutte. Grazie. Ciao.